pensare che nasce l'esempio storico italo-germanico di Trento, che mi hanno dato questa occasione di venire, l'occasione è stata veramente l'autrice, quindi lei devo ringraziare, notando al passante che sono dei percorsi che arrivano delle denominazioni ufficiali, non ci uniscono da un lato l'interesse delle visite pastorali, a proprio delle coincidenze, appunto, i professori che vengono da Firenze, da Pisa, gli studiosi che vengono da Bologna, poi che hanno avuto dei momenti comuni, su Bologna, naturalmente, sono Paolo Prodi, sono tutti i maestri, che vengono sempre in mente quando si leggono anche come questo, solo perché sono ricordati, ma perché stanno all'origine delle nostre curiosità, e naturalmente il ricordo di chi ha presentato certi problemi si sedimenta poi durante la vita di uno studioso, si chiede casualmente bracchili, gratitudine, quindi per quanto va a Berlin, a tanti modi, a spettacolo. Sono dei cantoni che vengono in mente tutti e due, questi nomi che c'è da questo libro, so che non è anche un volume, ci siamo uguali, perché gli chiedevo proprio per fare ragioni, per pochi problemi di competenza, che una grazia orbe in tutti i professori universitari, c'erano borsi veramente, ma diciamo perché per fare ragione, la gentilezza dell'amicizia fossi stato chiamato con voi per questa discussione, perché in realtà la fonte Viste Pastorali, nel senso da tempo al centro di tante letture, di tanti lavori commissionati, seguiti, tesi di laurea, non è stato almeno per me insomma una prova maggiore di ricerca, e ovviamente perché per l'appunto in fondo nemmeno chi ci ha avviato a questa ricerca negli Edin, nei tanti mori, è quello di Edin, ne ha parlato molto. Forse nessuno dei due ci ha offerto un modello di ricerca sulle visite pastorali. Hanno anche due invitato i loro studenti, come noi abbiamo fatto per molti anni, hanno invitato i loro studenti a occuparsi di visite pastorali, e ne fecero però un uso molto moderato, in, e addirittura nessun uso per di noi in quanto studiosi impropri. Quindi non mi porrò comunque problemi di competenza o di deontologia, ma però questa di un'attenzione concentrata professionalmente nell'uso della fonte, perché sempre per essere sempre mosso a immagini questa fonte, fermo, incoraggiando altri studiosi, eccetera, mi fermerò un po' sul limitare del documento, metodologizzando magari un po', perché questo dottore che metodologizzare, possibilmente non in astratto, ma insomma questa tendenza, questa tentazione, eccetera, questa tentazione di una pratica assolutamente concreta dei dati di queste fonti storiche. Guarda al lavoro di chi si vuole il problema di come analizzare questi dati con interesse, ma senza partecipare. L'attenzione per me è sulla prima parte del titolo, mi soffermerò un attimo sul titolo e subito e sugli ultimi capitoli di questo volume, perché poi ci sono voci più della mia autorizzate a parlare e vorrei che lo dovete. Ecco, il titolo scelto per questo volume, come si vede una volta per tutte, che fa onore all'Anna e mostra che l'eredità di ieri è stata in questo istituto raccolta completamente. Conoscere per governare, ecco, è il titolo, sottotitolo, di Diocesi di Trento, nella visita pastorale di Lodovico Manuzzo, 1579-1581. Ora, conoscere per governare è la sintesi di un programma, e il programma è appunto quello di Lodovico Manuzzo. Dunque l'ufficio si pone dal punto di vista del vescovo, ne segue lo sguardo, decifra l'intenzione che sta dietro i movimenti di quello sguardo. La visita è vista come un atto di governo e rappresenta il momento conoscitivo preliminare all'azione. Le linee del governo che seguirà sono pronte, sono state definite non dal vescovo, ma dalla Chiesa, dalla sovrana assise, dal concilio di Trento. Ma nel calarsi su di una realtà specifica, debbono queste linee tener conto di quella realtà, e per questo si fa la visita, questo è quanto si vince insomma da questo articolo, appunto dalla raccolta che consegue delle informazioni. Si vede cioè uno studioso che ha davanti, uno studioso che ha davanti le costruire da un lato il programma, il progetto del suo governo, e dall'altro i punti in cui la realtà si discosta da quel progetto. Chiameremo riforma o disciplinamento il progetto, di formazione o in disciplina quei punti che sono registrati come discordanti, e avremo così colto da un lato un momento di una lunghissima storia, la storia dell'adeguamento della realtà al modello proposto dalla Chiesa. Dall'altro abbiamo visto anche in che modo, fino a che punto, quel vescovo, i suoi collaboratori, con lui e i suoi ordini, seppero o non seppero interpretare il loro compito, essere insomma all'altezza del loro dovere. Tutto questo ci conduce a un carattere delle fonti storiche che non riguarda solo le fonti citate, il loro essere un prodotto di un atto umano, molto spesso la registrazione di uno sguardo. Il desiderio della storiografia del nostro secolo ha avvertito più fortemente è stato quello di ridare vita e concretezza umana a chi sta dietro quelle carte, a produrre, diciamo, un unico miracolo quanto illusorio, di reminiscenza di uno storico consentito, cioè loro di cui parlava Bloch, vedere, sentire l'odore della carne umana, vedere chi sta dietro quelle carte, perché sono state redatte, cogliere il momento, definire l'atteggiamento di chi quelle carte ha redatto o ha fatto redigere. Pertanto, dietro la storia millenaria del continuo processo di adeguamento del mondo ai disegni della Chiesa, processo che sta a cuore ovviamente la storiografia cristiana e cattolica, c'è chi ci ha invitato a distaccarci da quel vescovo che guarda, che indaga, a non dimensionarci esclusivamente su di lui, ma a cercare, seguendo il movimento del suo sguardo, di capire che cosa lo muove, dove vuole guardare e perché. Anni fa Peter Burke tentò di compiere questo movimento, ci propose di studiare il rapporto tra lo sguardo del vescovo, le sue domande e la visione dei laici. Ci insegnò insomma un secondo di insegnarci a vedere i limiti storici della facoltà di vedere e di stabilì una certa distanza che forse non è male insomma assumere come nostra, una distanza tra noi e questi vescovi cattolici della prima età moderna. Quello che interessava a Peter Burke, a interessare a molti di noi, era la storia del popolo. La storia del popolo, della religione dei laici, per quello che aveva di estraneo e di diverso dalla religione proposta dal mondo ecclesiastico. Il tentativo era quello di ricostruire quello che era poi stato modificato o cancellato proprio da quella azione di governo. Ricordo quella proposta perché appunto ci ha aiutato a visualizzare questo genere di documenti, mostrando che cosa potevamo chiedervi da un certo punto di vista, dal punto di vista appunto degli storici curiosi pratiche, delle idee, delle pratiche, delle idee del mondo del passato. Non, quegli storici che non si sono sentiti legati alla realizzazione di quel programma di riforma, pensando di vedere esclusivamente questo aspetto, diciamo, del processo di riforma dell'azione del vescovo, come qualcosa che li implica o che tende anche verso di loro. Un'installazione, un disciplinamento perseguito per secoli e secoli dalle istituzioni di governo della Chiesa nel mondo. Abbiamo imparato, e queste cose di lettura che venivano a mente quando leggendo la parte conclusiva del volume da cui vorrei prendere l'occasione di questa osservazione, abbiamo imparato dalle istituzioni di Peter Burke che la religione dei laici non entra molto in quest'epoca nel campo visivo del vescovo. Sguardo che è occupato prevalentemente dal clero e dalle sue istituzioni. Questa parte, infatti, è necessariamente predominante nell'indagine molto ricca, molto attenta di Cecilia Nuova, e su questo anche voglio soffermarci, perché ci sono delle notazioni estremamente interessanti di storia delle istituzioni, che però non vorrei toccare, penso per esempio al caso appunto, della struttura dei pievani. Ora, restando al punto, affermare. I laici ampliano molto l'interesse della studiosa che ha fatto questa ricerca, che dedica solo gli ultimi capitoli, che sono stati assolutamente ricchi e densi, proprio in rapporto con una fonte che invece è abbastanza lenta, abbastanza distratta. I dati che lei raccoglie sulle parti religiose e sulla presenza di tradizioni e di comportamenti distorti dalla norma sono dovuti a ricerche sue, su altre fonti, alla sua cultura personale, direi appunto al suo sguardo, che in questo caso va al di là di quello che è suo. Facciamo degli esempi: il caso delle notizie sulla sepoltura dei morti senza battesimo e sulla che dice il traghetto appunto della sospensione temporanea dei bambini morti senza battesimo, la storia di quel mugnaio della Val di Fiemme, Urbano Urber, di cui ora parla, pagina 386, che è una spia piccola ma interessante, e la usa molto bene, per su pratiche che possono significare sì protesta contro le intromissioni, contro l'inadempienza del clero, ma possono anche rivelare qualcosa di più su quel che si pensava di dover fare davanti a creature inquietanti, a presenze inquietanti nel folklore europeo, quella dei morti senza battesimo. La notizia appunto è quella di una sepoltura di bambini avvenuta in assenza dell'ecclesiasta. Questo si innesta un piccolo caso, un processo. Però d'altra parte, se il parroco era indisponibile per il funerale, certo non lo era stato, ma non era stato particolarmente disponibile per il battesimo, e dunque quella gente si era trovata davanti al problema di che cosa fare, per diciamo, di come comportarsi davanti a una morte che forse era particolarmente minacciosa e inquietante, secondo i dati di un folklore europeo in materia di morte senza battesimo, è antichissimo. Qualcosa di più possiamo sapere, che l'unica cosa che veramente importasse all'autorità ecclesiastica post-tridentina, questo è il secondo punto su cui vorrei soffermarmi, cioè la questione dei confessi, dei comunicati e dei non confessi. E questa, e questo punto mi pare molto importante, ancora una volta in questo caso mi sembra che la sua ricerca sia andata, abbia diciamo, ricollocato i dati della visita in un contesto. E il Concilio di Trento sia stato importante nella storia della confessione, no, la svolta storica segnata dalla passione del Tridentino, la generalizzazione, la vera e propria messa in pratica dell'obbligo antico della confessione annuale. Ora, il libro di Cicchiamo ancora offre elementi interessanti, intanto sul meccanismo, su questo meccanismo di rilevazione dei dati, e poi sulle ragioni, sulla rilevazione dei dati, dei confessi, e dall'altro sul modo particolare, peculiare, in cui questo avveniva tra diocesi di Trento, e dall'altro appunto sopra le ragioni che stanno dietro questo dato sociologico dell'esistenza di gruppi di non confessi, no? Che non si confessano, che reiteratamente invitate a farlo, evadono questo dovere e pongono le autorità davanti al problema di come convincere. Naturalmente la spiegazione normale è che si tratta di persone che per le litigi in corso non possono accostarsi al sacramento che ratifica una situazione di conciliazione, una situazione di assenza di conflitto. E questo è anche plausibilmente vero. Dei sacramenti è un rapporto normale in quest'epoca, anche al di là delle frontiere cattoliche. Ricordo sempre il conto volume di Sabino, che studiando appunto raccontato il caso di questo vecchio contadino che pone un drammatico problema perché non si ricorda, non riesce mai a recitare l'intero paternoster, quindi la comunità non sa come fare, no? Quella dell'ignoranza, non intera cattolica, ma lo stesso problema dell'ignoranza invincibile che si poneva gli sdessiani. Perché non poteva perdonare qualcuno che aveva un'offesa. E una situazione di letteralismo, di preghiera, di rifiuto di recitarla, significava l'invincibilità della ostilità nei confronti della persona con cui si dice che era in atto. Allora, diciamo, siamo davanti quindi a spiragli, nelle visite pastorali di area cattolica in maniera sistematica, ma da processi di questo tipo, processi criminali, eccetera. In area protestante, non sistematico, però hanno spiragli di una realtà della conflittualità sociale che illumina indirettamente la natura, diciamo, un po' estensiva della comunità religiosa, no? La coincidenza tra comunità di fede e comunità civile, vita sociale. È un elemento che vale la pena notare proprio perché uno di quei dati che la storia attivi e vitali al di là di quelle distinzioni che dicevamo appunto di carattere confessionale. Ora, quindi questo rapporto è in dubbio, un rapporto che nella realtà trentina ha un riscontro interessante e che risulta nuovo. Alludo al caso di Rovereto, di cui dopo una banda a pagina 418, dove abbiamo l'invio nel 1581 dell'elenco degli inconfessi, l'invio da parte non solo dell'autorità ecclesiastica responsabile per questo aspetto, ma anche da parte dei responsabili della comunità, un invio indipendente a quanto pare e contemporaneo. È un caso singolare, mi sembra, e non rientra nelle funzioni di tipo esecutivo e subordinato che la struttura ecclesiastica normalmente riserva al potere civile, al potere civile. Non si tratta insomma del braccio secolare a cui si affida il compito di disciplinare, di portare ordine, all'obbedienza chi non si confessa, che è stato fisso dall'elenco appunto degli scomunicati. Si tratta invece di un'autonoma volontà di governo dei comportamenti religiosi che diciamo, è destinata in maniera eccezionale da questo documento e che però ci ricorda che spesso questo dato è un dato reale, un dato diffuso, di cui diciamo, un'intera storiografia sulle visite pastorali proprio perché legata alla fonte dal punto di vista ecclesiastico a quel modello che la storia ecclesiastica tende a realizzare non ha sempre tenuto il debito conto. Una situazione segnalati che sono i sospetti dell'eresia, sia che appunto che normalmente tratta di seguire lo sguardo del vescovo nella direzione che più premeva le autorità tridentine, quella dell'eliminazione del dissenso religioso. Il libro conferma a questo proposito la forte componente controriformistica. Del controllo, il tentativo di piegare tutti al dovere, ricordare in maniera pressante, insistente, il dovere della confessione annuale, migravano in particolare in quest'area del confine con il mondo tedesco, dove la diffusione della riforma era palpabile, e miravano a isolare e combattere, identificare e combattere l'eresia. L'interesse delle pagine da Nuova sta proprio, mi sembra, nell'aver connesso i dati delle visite, leggendoli nel contesto di altre fonti, ricostruendo la consistenza e i caratteri dei nuclei di eretici luterani rivisti, diciamo, per un brano dell'accezione impara e basta che in questo periodo, che a questa data esistevano nel Trentino. Qui i meriti di una storiografia che ha Trento più che altrove, lei ci ha fornito. Delle visite, ha studiato la storia di questa chiesa, con particolare investimento analitico, ci permettono di leggere questa visita e su Roger Cotardi, di facile vedere in prospettiva lunga, su queste situazioni che lui ben conosce, parlo dagli studi e degli altri. Ma leggendo, dicevo, questi dati in prospettiva, siamo incontriamo. Appunto il mantenersi di aree refrattarie dal disciplinamento, e per esempio ho preso a caso del notaio Colombini, in cui si parla a pagina 223 seguenti, che è stato processato nel 1564 e che nel 1579 risulta ancora pertinace nel suo comportamento. Caso veramente singolare, perché ci mostra che si poteva simulare, ma non troppo, tenere posizioni calviniste e fare proselitismo senza rischiare, in maniera particolare, cioè, la nostra immagine globale, insomma, di una controriforma aggressiva che nei confronti degli eretici bisogna mezzi forti, in questo caso dovrà accedere davanti appunto a un tratto specifico che vorrei porre l'attenzione, forse sono io che è sopravvaluto, ma mi pare, cioè, una situazione delle differenze come quella che caratterizza la storia d'Italia, delle differenze e regionali e culturali specifiche, che questo carattere assolutamente unico della storia italiana, che è tanto più valido per l'epoca di cui parliamo, si tratta proprio di capire anche la differenza specifica del Trentino nel contesto di un processo, che è un processo unitario, concorde, con le grandi linee di disciplinamento, di riforma, così. Ora, mi chiedevo quanto la permanenza di questo caso singolo, ma interessante, perché poi mai il solo, insomma, no? È isolato, fosse dovuto per appunto alla forma specifica che a Trento si usava per intervenire in materia di eresia, l'assenza dell'Inquisizione romana, la gestione del sovile dei processi, in questo caso sembrano associarsi ad una mitezza sostanziale. Quanto poi alla consistenza del gruppo ereticale che si poteva costituire in un notaio, possiamo solo fare illazioni. Forse se la documentazione degli atti notarili lo consentisse, si potrebbe fare qualche passo ulteriore in direzione dei clienti, diciamo così, questi notai che si abbondano spesso negli eventi luterani cinquecenteschi, aprono degli spazi in una società che intorno a loro si muoveva e forse permetterebbero attraverso degli atti notarili imparare qualcosa di più, ecco, sulla permanenza di isole di differenza, di questa differenza specifica che è la scelta eretica. Anche qui, insomma, completando e perfezionando quell'atto di conoscenza dello sguardo del vescovo, che in questo caso francamente non sembra uno sguardo particolarmente aguzzo né male intenzionato. Duro nella forma di approccio alla differenza ereticale, perché l'acqua alla forma vescovile dell'Impeteto, perché abbiamo anche nel panorama italiano di quegli anni dei vescovi, al Borromeo, che sono grandi, diciamo, nel senso per di nascere, per di nascere, non, diciamo, non avevano scelto, non leggevano, insomma, sentivano spinti da, da dovere. Un'altra osservazione sulla questione dei sacramenti che va nella stessa direzione. Vorrei sottoporre alla vostra attenzione una cosa che mi ha colpito, appunto, e cioè l'elenco dei casi riservati, no? Questa storia della confessione è una storia di cui vorremmo sapere di più, una storia infinita, una storia importante, che importa, appunto, l'elenco dei casi riservati, e ci indica, appunto, diciamo, i limiti dei poteri di assolvere, e indica per esempio che per assolvere la eresia, pagina 421, si poteva anche ricorrere agli arcipreti nel periodo della settimana pasquale. Mi pare un altro segno della volontà di usare modi piuttosto miti, di aprire le porte a chi voleva rientrare senza esporlo procedure penose e faticose, complicate e pubbliche, soluzioni discrete, soluzioni riservate, per tutti coloro che volevano abbandonare le posizioni di dissenso esplicito e pertinace. E altri segni, insomma, altri segni mostrano che questa procedura insomma, che si vince almeno da queste linee teoriche di governo, dalla distinzione del movimento dei visitatori sulla situazioni concrete, mi metto ad esempio da quello che riguarda l'esame della preparazione del tempo, qui tocco, ma solo la parte ricchissima che questo volume è dedicato alla visita in quanto governo della situazione, rilevazione dei dati e governo dei problemi del personale ecclesiastico. Se questo esame sulla sufficienza del clero è un punto complicato, capitale, vescovo in visita e se non ricordo male negli atti della visita del Clesio si incontrano persone, si incontrano con i visitatori che dicono che ci si deve confessare solo a Dio in maniera generale e qui ritorniamo appunto a questo problema della confessione generale di cui la popola parla e che non è la confessione generale che negli stessi anni i gesuiti diciamo, portano a diventare la quasi normale di accesso alla confessione, un momento liberatorio e globale di racconto dei propri errori per rigenerarsi. No? Non è questa confessione, è una questione generica. La confessione generale in questo caso vuol dire ammettere genericamente di essere un peccatore e avere la soluzione. Quindi questa confessione generica che è allineata, insomma, alla quale ci si, insomma, si è prestata un certo favore, sembra zone della diocesi interina, era un modello, un modo di confessione che era gradito ai luterani, per ancora la definizione in maniera ampia e generica, e in questa stessa direzione ci porta, per esempio, quella formula di assoluzione, un momento pure importante è quello dell'esame da parte dei visitatori, se il clero sa le formule di assoluzione, no? Se è sufficiente al suo compito. E c'è questo Don Tommaso Molitori, di cui si parla pagina 666, che usa una formula che lascia a Dio il compito di assolvere dai peccati e subito i visitatori rimettano questi elementi liberali e si trovano davanti ad una posizione diciamo, non di ignoranza, di preparazione, ma di scelta sospetta, teologicamente radicale, che è probabilmente un caso di seduzione esercitata dall'idea della riforma su di un uomo che immediatamente denuncia e si rimette al credo o credente senza resistenza. Dunque, sui connotati della repressione dovremmo dunque concludere che furono dominati dalla prudenza e dall'assenza di rigidezza. Tutto questo ci riconduce ad un potere vescovile esercitato senza l'esigenza riformatrice che ormai abbiamo collegato al personaggio di Carlo Borromeo e senza l'insidia, che questo mi pare debole, un potere inquisitoriale controllato da Roma. Se si pensa alle ragnanze di vescovi e di vicari vescovili in questo periodo, si sentono onorati nella loro funzione, nel loro prestigio, nel loro compito, dalla presenza di frati che col potere del Santo Uffizio sottraggono loro. Dei fratelli che scrivevano Cervini, dicendo: ma come qui c'è un frate che è ignorante, e io devo subire l'onta di vedere esercitare una giurisdizione nella diocesi che io dovrei governare. Il dramma, lo sconcerto, lo scandalo di cui parlava il decadente fu probabilmente vissuto, anzi quasi certamente vissuto in molti casi nelle diocesi italiane dell'avanzata del Sant'Uffizio, che fu rapida e decise. E in questo caso invece è un caso in cui l'assenza di queste forme segnala dei caratteri che sembra originali dell'esperienza cristiana. E che ci aiuta anche a capire, credo, la reticenza per concludere questa lunga, secondo preambolo, insomma, davvero alla conclusione, e ci aiuta a capire anche la reticenza di queste fonti sui casi di magia, di superstizione, di stregoneria, in un periodo di ampliamento senza limiti dei poteri inquisitoriali sul territorio della cosiddetta superstizione. La discussione in questi anni è molto accesa se i casi di superstizione, anche di quella superstizio, quelle non sapid eresi manifeste secondo la formula canonica, appunto, se cioè appunto l'inquisizione dovesse occuparsi soltanto di casi di eresia manifesta nelle forme di superstizione, o potesse occuparsi di dei casi in cui l'eresia non fosse palese. Senza eresia manifesta, discussione aperta, la tendenza è a combattere questo territorio e di fatti la situazione concreta dei processi di posizione di questo periodo, come sappiamo, è quella che vede a partire dagli anni 80 del 500 almeno una netta predominanza di una minuta e fortissima serie di casi appunto di carattere magico, superstizioso, risolti magari rapidamente in forma congenita, ridondanti e traboccanti in rivalità sempre più aperta con la normale attività del tribunale di Scovini. L'attività del tribunale di Scovini è ancora esplorata come cerchi da posto, perché ne sappiamo ancora abbastanza poco, che certamente ci fu. Vorrei dire ancora un'ultima cosa, se posso, se non è eccessivamente un problema. La cosa che mi ha colpito in maniera particolare è quella di cui l'autrice si occupa nella parte dedicata, nell'ultimo capitolo, della parte dedicata appunto, ne accenna fin dall'inizio, questo problema è molto spesso e veramente molto ricco e suscita e stimola voglia di parlarne per confronti e per analisi molto a lungo. Ecco, ma nell'ultimo, nell'undicesimo capitolo, dove affronta la questione delle organizzazioni laicali, la riprende una questione che aveva toccato fin dall'inizio, diciamo, sul rapporto tra questi visitatori, no? Una situazione della vista che Andrea che è descritta, io sono proprio pensando a un seminario in cui ciascuno poi focalizzava qualche tema, l'ho lasciato un po' senza parlarne, ma in questa organizzazione, in questa strutturazione molto sapiente, molto articolata della visita, che è un'azione collettiva, coordinata, quello programma di governo, c'è questo problema delle confraternite, che il problema delle confraternite è il problema della carità. Ora, se c'è un tema importante nella storia della vita religiosa italiana e non solo italiana, ma in particolare italiana e cattolica, è il problema della carità. Noi abbiamo nell'occhio e nell'orecchio appunto la questione della fede, no? L'azione di Lutero che mette al primo piano questione della fede, no? Virtù teologali associate nella traduzione, nella prima traduzione italiana di Volpiano e Lutero, proprio la cosa che viene sottolineata anche dal traduttore è che non sono allo stesso livello, che prima viene la fede e le altre sono in posizione secondaria. Ed è questo punto, è un punto che urta con una situazione concreta dell'assetto della vita sociale, religiosa, perché religione e società sono estensive in questo dominante della situazione italiana, e un aspetto che poi alla lunga doveva diventare dominante nella storia, nelle note caratteristiche del cattolicesimo italiano, cioè la ricchissima rete di forme di intervento, no, nei problemi della vita quotidiana, che andava sotto il nome di carità. Questo assetto così ricco e lussureggiante che qualche lo stesso Deo in visita in Italia è proprio l'assetto della carità. Ora, su questa storia della carità noi poco ne sappiamo. Sappiamo per certo, e diciamo, abbiamo imparato quando frequentiamo le visite pastorali, che questo assetto della carità urtò in qualche modo, assetto antico, assetto medievale, urtò da forma identica, no? Non urtò soltanto, diciamo, il primato della fede, posto allo Deo, ma urtò anche un certo disegno di identico, tanto è vero che siamo abituati a trovare nelle visite pastorali questa, diciamo, questa diffamazione delle fraternite per il loro essere luoghi dove si mangiava, si beveva, si faceva distribuzione di vino e di cibo. Tanto è vero che appunto le rendite di queste confraternite venivano convertite in quella sua nominata carità, dice lei, quando le varie visite è impressionante. In quella sua nominata carità, ma confusione, baccanali e strapazzo di roba, e se pur vogliono fare tale carità la faccia del suo, non di quello che è alla detta chiesa destinata, c'è un problema. C'è una diffamazione in atto contro le forme della convivialità, non so come la chiameremo, perché si chiamava carità, ecco. C'è una diffamazione che ha uno scopo, ma che uno scopo che va ricordato, perché ci riporta a un dato degli atti di vista, che non sono soltanto una fotografia della realtà per poi intervenire, sono un atto di intervento. La visita è un intervento importante, è un momento significativo. La visita in qualche modo ha il suo compito già realizzato nel suo stesso esistere, cioè non è qualcosa di previo a un intervento, è un intervento essa stessa. E la visita tridentina è un intervento particolarmente alto e solenne, un intervento complesso, con prediche, con atti rituali, con amministrazione della giustizia. Più tardi, piuttosto, diciamo, vedremo, probabilmente possiamo insegnare in relativo allo sviluppo, più tardi la visita diventa un atto quasi esclusivamente amministrativo, mentre le forme di rivitalizzazione religiosa, di animazione, di introduzione di nuovi modi di vitalità religiosa sono affidate ad altri tipi di intervento. La missione, per esempio, è singolare, vedere come, diciamo, dalla visita che noi conosciamo tra 400-500, che comprende la predica, comprende di non fare, comprende gli atti di culto, comprende diversi momenti e celebrazioni, si passa poi un atto scarnificato, mentre c'è una parte di capitalizzazione, per così dire, viene affidato ad altre agenzie, ci sono dei corpi che si specializzano, soprattutto i gesuiti, lo sapete benissimo, ci sono le missioni e così via, insomma, ma le missioni sono una visita, questo anzi sarà un problema specifico, nel senso che c'erano dei gesuiti che chiamavano missioni, che vanno a visite, ci sono dei vescovi che si offendono, c'è una polemica molto interessante a questo punto, ma questa è una divagazione che non posso permettere. Quello che volevo dire è che, diciamo, l'atto di visita, a proposito della carità, è un atto polemico di aggressione a queste forme della carità, che sono forme complesse, che non sappiamo poco, bisognerebbe saperne più e confrontare i dati delle varie situazioni italiane. Certamente qui tocchiamo un livello molto importante della vita sociale dei borghi italiani della prima età moderna. Qui siamo davanti ad un'organizzazione strutturata della vita sociale, in cui l'incontro, la distribuzione gratuita di cibi e di vino, le feste dell'abbondanza, anche l'ubriacarsi, se vogliamo, facevano parte dei ritmi di una vita sociale in cui era inframmischiata la religione, la carità era questo. Su questo modo di andare delle cose, in linea così, insomma, le vedete come so poco anch'io, e volevo tutti per sapere di lui, si innesta invece la riforma tridentina che appunto polarizza, sembra, si vince anche da questo documento, soprattutto questo, insomma, polarizza intorno alla Chiesa, proprietaria dei beni, il compito di organizzare ordinatamente la distribuzione di aiuti a dei poveri che essa stessa censirà e che raccoglierà intorno alla Chiesa, cioè un movimento, un altro dei tanti movimenti, se si tengono per adesso il matrimonio, la Luba ha dedicato delle pagine veramente molto interessanti perché la materia del matrimonio è una materia primaria nel moderno di queste epoche, ma è lo stesso movimento di attrazione della vita sociale, delle sue forme più vitali, nella sfera ecclesiastica, combattendo con tutto ciò che più robustamente teneva al di fuori della Chiesa, in uno spazio sociale diffuso, la manifestazione di vita sociale e religiosa. Ora, queste confraternite sono resistenti, cioè non è, per noi siamo abituati a immaginare questo che lotta contro le deformazioni, contro la gente che è ubriacona e dedita alla dissipazione. Per cui siamo davanti invece ad un'autorità che entra in contrasto con una struttura della vita sociale ramificata, diffusa, importante e vitale. E lo fa aggressivamente, lo fa insultando, no? Abbassando, imbolgarendo queste manifestazioni, di cui però basta il tono aspro e rilevato per capire la profonda radice. Tanto è vero che la lotta contro le confraternite, dico di svuotare le contrarie confraternite popolari con confraternite parrocchiali, che sono solo degli strumenti, che nient'altro vuole che organizzare piramidalmente i rapporti sociali, assumendone pienamente il controllo, ecco, questo tentativo non avrà successo. Noi poi siamo portati da questi atti di stare a immaginare una riforma che, come la Minerva dalla testa di Giove, esce dalla testa del Tridentino e immediatamente cambia il mondo. Questa è una lotta di lunga durata, ci saranno dei secoli, certo, alla fine queste forme, diciamo, le abbazie, le giocoli, le feste dei fogli, tutte queste cose che noi pensiamo, ancora per tornare a quello, cancellate appunto dalla quaresima della controriforma che cancella il carnevale precedente, in realtà negli atti, nei documenti, nella storia della società italiana troviamo ancora vive vitali fino al 700 soltanto, quindi insomma anche qui bisogna andare molto cauti a disegnare i ritmi di una vita che fu complicata proprio perché siamo di fronte conflitto di cose reali, non davanti a un vescovo che ha un modello, deve soltanto imporre eliminando dei margini di dissenso. Siamo davanti a un conflitto tra una forma nuova e diversa di organizzare la vita sociale e ecco, basterebbe questo per dire quanto la comunità sia viva, tenace, strutturata e sia in grado di fare fronte alle pretese di un governo. Che sono nuove, che rompono gli equilibri e che comportano degli spostamenti, magari entrano nel senso della modernizzazione o meno, ma sono degli spostamenti significativi, un equilibrio di lunghissimo periodo. Scusate, lunghissimo, diciamo, grazie.